sa, sa, check it. Prendila se la vuoi prende. Sa, sa, Gimonello nella zona. Mi chiedi perché droga, spiego subito come funziona questa generazione che ne ha la prova, non se ne ha dolore e prova. La prima volta è strana, la prima volta non si scorda mai. Mi dicevano la tradirai, discorsi strani non capivo. Sentivo ma non udivo, quando per strada è incazzato, volume a palla. Se vedo una riga per farla finita, non ho carta cellulare in questa giungla urbana. Brrra. Chiamo il mio pusher, 50 euro un beat, fast producer. Mi serve uno per sta bene, un altro a chiodo, please. Le sogna da una vita, la mia famiglia, essere figlio unico, avere io la sua per una volta sola. Fumarate strana astratta, la mia, una vita circondata da gente bigotta. E più questa gente esiste, più mi dà la forza di migliorare. La forza aumenta anche se ogni cosa va storta. Fortuna tosta droga, che si chiama musica. Ogni cosa perdona, ogni cosa ma giusta è l'unica. L'unica, l'unica. Fortuna che ho sta droga, che si chiama musica. Ogni cosa perdona, ogni cosa ma giusta, l'unica. L'unica, l'unica. Alza la testa cazzo, di modi per svagarti ce ne son tanti. Lo dico a sti bastardi a notte tardi, che non riesco a non chiamarli per i dolori e i crampi. Sei un cazzo tu, che mi vedi colorato, solare perché ci son nato. Per quanto ci hai provato, il sorriso col cazzo che me l'hai cavato. Fortuna che ho sta droga, che si chiama musica. Ogni cosa perdono, ogni cosa ma giusta, l'unica. Mazzo sudato, frate il primo pensiero. Dopo il giornale una dose di sto siero. Serio, accendo il PC e mi siedo. MD, musica, droga, ne voglio ancora, ancora, ancora. Ma stanco di sti pezzi, mai fatto una pausa. Mai di sentimenti, mai venuta a nausa. Perché sta droga vendo tutto, pure i gioielli. Fotti un cazzo di avere quelli, se non ho i fratelli accanto. Nei giorni brutti e quando poi son belli, il cielo è sempre azzurro, come il mio sangue nobile. Traduco, dammi un'altra dose che lo riproduco. Un consiglio non richiesto, non è un consiglio ma un giudizio. Ricordi di pianti, abbracci quando ancora non avevi il vizio. Dammi 5 minuti e fissami senza rimpianti. Battimi sto 5 e fissami con l'iri da due palmi senza che piangi.